Italia in controluce. 13:35 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti all'appuntamento di Radio 24 con la cronaca, le storie che non avete sentito altrove, i fatti e i personaggi che ci parlano dell'Italia in controluce. Oggi andiamo a Palermo, dove in mattinata ha dato le sue dimissioni il prefetto Giuseppe Romano, uno dei tre commissari dell'AMIA, l'ex azienda municipalizzata che nel capoluogo siciliano si occupa della raccolta e del trattamento dei rifiuti, un tema quanto mai delicato. L'azienda commissariata per la crisi debitoria accumulata negli ultimi anni. Motivi personali, ha detto il prefetto Romano, legati al suo impegno professionale all'ospedale Galliera di Genova. D'altra parte, la situazione a Palermo, lo sappiamo, resta difficile. Anche sui giornali di oggi ci sono le notizie. La discarica della città, Bello Lampo, resta in una situazione difficile. Al collasso, i rifiuti in certe zone stazionano per le strade prima di essere ritirati. Insomma, abbiamo sentito a caldo della sua decisione il commissario, l'ex commissario a questo punto, Romano. Nella lettera che ho mandato, nel telegramma che ho mandato al Ministero dello Sviluppo Economico, lo dico quali sono i motivi. Ho questo impegno su Genova, oltretutto le devo dire che stiamo lavorando al progetto di un nuovo ospedale. Si è concretizzato in questi giorni l'opportunità di fare ancora qualcosa di più, per cui la mia permanenza a Palermo si conciliava, lo dico sotto anche il profilo dell'impegno fisico, non si conciliava assolutamente, per cui ho preferito lasciare. Ecco. Tutta la questione, la gestione contabile, amministrativa, la massa debitoria enorme, uno dei due commissari, il dottor Lupi, che ha professionalità da vendere, io sono sicuro che l'AMIA si potrà risanare con grande sacrificio, naturalmente rivedendo anche tutte le problematiche che riguardano AMIA SM e quant'altro. E quindi ci sono buone speranze che nell'arco di 2 anni si riesca veramente a fare riemergere AMIA. Resta fortemente problematica la questione che riguarda Bello Lampo, perché ora, al di là dei presunti contrasti tra la capienza della quinta vasca, tra il commissario delegato prefetto che dice no, vale un anno e mezzo, io dico che il professore Vagliasin, che è un tecnico straordinario di vaglio, questo è l'ordinario di ingegneria ambientale all'Università di Catania, nella relazione che poi ci ha consegnato, in effetti in maniera puntuale, scientifica, è arrivata alla conclusione che quella quinta vasca, non vale più di 70 giorni. Allora, dall'8 giugno io incontri so fare, dall'8 giugno andiamo a finire verso a fine agosto. Come si farà dopo non lo so assolutamente, non ne ho assolutamente idea. Ma stiamo parlando della discarica di Palermo, in pratica, no? Della più grande. Esatto. Conclusione, questo è il problema dello scenario futuro che riguarderà appunto Palermo e gli altri comuni che conferiscono. Dove andranno a conferire se veramente questa quinta vasca è tanto capiente? Ed è il primo problema, grande, angosciante, perché una città come Palermo non può trovarsi dall'oggi al domani senza avere la possibilità di disare, di smaltire i propri rifiuti. Ecco, ma sì, esatto, l'altro problema è del percolato. Quando siamo arrivati ci hanno detto che c'era un laghetto di percolato di 3.500 tonnellate. Scopriamo, a seguito delle indagini fatte dal professore Vagliasin, che parliamo però di stima di 100.000 tonnellate, 100, 120, potrebbero essere anche 150, parliamo di stima, non per niente abbiamo incaricato questa società che già da oggi sta cominciando queste trivellazioni per capire nell'arco di 15 giorni quant'è veramente. Allora io dico questo, facciamo finta che non sono 100.000 e sono 80.000, o facciamo finta che sono 120 o 130.000 tonnellate, è un mare immenso per il quale io non so i tempi che occorre per allontanarlo. Se noi siamo riusciti a 350 tonnellate al giorno, il conto penso che è facile farlo, no? Per arrivare a 100.000 ci vorranno dei mesi. E quindi? Nello stesso tempo questo disastro ambientale, io non so se non crea problemi alle falde artifere e quant'altro, voglio dire, è uno scenario inquietante anche da questo punto di vista. Non è questa la ragione per la quale ho ritenuto di andarmene. La ragione è quella principale, originaria, che ho avuto occasione anche di dire. Ma dico, come cause, come concause c'è anche questa. Ma lei dice che Suamia è convinto che si possa arrivare a una soluzione dei problemi anche dal punto di vista amministrativo, ma questo si coniugherà anche rapidamente, secondo lei, con la capacità di raccogliere rifiuti per strada e anche di garantire quel minimo di efficienza della cura del territorio? Devo dire che indipendentemente dai vari soggetti istituzionali che vantano di avere fatto arrivare i compattatori e quant'altro, perché sai, poi la politica segue anche certe logiche che mi sfuggono, se ci sono 5 autocompattatori è solo perché siamo stati in condizione di fare, di darci da fare, ma lasciamo stare chi dice ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Io penso che con le iniziative assunte da Ania per gli autocompattatori, che erano quelle risorse che mancavano, semplicemente Palermo può tornare alla normalità nella raccolta quotidiana. Magari resteranno fatti di sofferenza nelle periferie, ma se arrivano altri autocompattatori ancora, non parliamo poi di quelli che dovrebbero essere consegnati tra novembre e dicembre 37, che significa pure veramente fare una flotta di Ania moderna, efficiente, costantemente riversata sul territorio. Quindi da questo punto di vista sono molto ottimista, nel senso che sicuramente alla città si può dare anche questa risposta. Italia in controluce. Così la situazione a Palermo. Ricordiamo solo che sulla gestione dei rifiuti sono aperte numerose inchieste. Adesso saliamo a Milano. Saliamo a Milano per parlare della comunità Exodus, la comunità di Don Mazzi, fondata 25 anni fa per il recupero dei tossicodipendenti al Parco Lambro. Sentiamo Katia Caramelli. Sono gli inizi degli anni Ottanta. Il Parco Lambro a Milano è diventato il regno dello spaccio e della delinquenza. È lì che Don Antonio Mazzi, prete veronese, formatosi alla scuola di Basaglia, tra i primi a creare le case e famiglia, già da alcuni anni opera. Decide di risanare quell'area così da poter sanare le vite dei ragazzi tossicodipendenti. Nel 1985 nasce Exodus. Dico, devo fare qualcosa perché il Parco Lambro esplodeva e ho cominciato ad aiutare i primi ragazzi, i primi 14 ragazzi. Non volevo fare le comunità perché io ho sempre odiato le baracche e io, venendo dall'esperienza scoutistica e dell'oratorio, ho fatto un campo mobile, ho preso 4 camper, ho messo dentro 14 ragazzi con 4 volontari, 9 mesi li ho tenuti in carovana, girando, facendo del volontariato, va bene. E poi è cominciata la prima comunità, è andata bene. E poi adesso facciamo delle comunità residenziali itineranti, cioè alcuni mesi dell'anno tutte le comunità, anche le residenziali, devono prendere la bicicletta o le gambe o le scarpe o gli zoccoli e camminare. Perché camminare è fortemente educativo. L'uomo è il suo cammino. I suoi ragazzi Don Antonio se li ricorda tutti. Storie diverse, destini diversi, un unico fondamentale bisogno, ci dice, essere ascoltati. Disagio adesso è diventato la solitudine, l'alcolismo, la paura di diventare grandi, hai capito? Un disagio a 360 gradi. Una volta dicevano una famiglia dove c'è papà e mamma che funzionano, funziona. Non è vero, non funziona neanche la famiglia con papà e mamma. Smettiamola di pensare che laddove c'è un matrimonio che pare funzionare, funziona. Perché il disagio degli adolescenti è un disagio che non conosciamo ed è un disagio soprattutto spirituale, dell'anima, va bene? Come fanno adolescenti di 14-15 anni a aver paura di crescere? Quando un adolescente ha paura di crescere vuol dire che la società non c'è più. Bisogna credere in loro, bisogna smettere di criminalizzare gli adolescenti e amare gli adolescenti. Pensa ai giovani dunque Don Antonio, perché nelle loro mani è il futuro. A loro ha dedicato gran parte della sua opera, forte della sua esperienza personale. Quando giovane, ci ricorda, era fuori da ogni schema. Io sono diventato prete per sbaglio, perché con la mia giovinezza, che ne ho combinato di tutti i colori, che ero il borderline di oggi e che ero fuori di testa di allora, e mia madre che piangeva sempre, e mia madre era vedova, per cui abbiamo patito la povertà. Io non ho mai accettato di essere povero, che volevo volevo avere il gabinetto in casa, volevo avere un letto, mentre avevamo un letto in due, quindi ne ho combinato di tutti i colori. Sono stato bocciato per cattiva condotta in terza media, ho rifatto la terza media e da lì in poi ho trovato una persona adulta che mi ha dato una mano e ho scoperto la musica, mi sono dato la musica, ho fatto il liceo classico. Poi volevo fare l'insegnante di lettere e sono andato a Ferrara, Bologna, e è arrivata l'alluvione nel 51 e ho capito che dalla sera alla mattina c'è qualcuno che c'ha il papà e non ce l'ha più, che c'ha la casa e rimane senza, che la povertà arriva da un momento all'altro, la disgrazia anche. Ho pensato che significato dare la mia vita balorda e dico forse, sai, se aiuto gli altri forse salvo anche me stesso, però per aiutare gli altri dico potrei fare il prete, ma uno come me che fa il prete, dico come fai a fare il prete, un balordo bastardo. Ho mollato l'università, ho mollato la musica, sono andato dal vescovo, ho detto voglio fare il prete, il vescovo di Ferrara. Il vescovo di Ferrara si è messo a ridere, dico è inutile che lei ride, io voglio fare il prete perché voglio salvare i bambini dell'alluvione, i bambini disperati. E ridendo e scherzando il vescovo prima ha riso, poi visto che faccio sul serio, ho fatto il prete. Adesso ho 80 anni, mi domando ancora se sono un prete giusto o sbagliato, però faccio volentieri il prete. Ho fatto il prete che volevo io, salvando migliaia e migliaia di persone. E a più di 80 anni don Antonio Mazzi non si tira indietro, pensa ad altri progetti. Oggi voglio fare nel Parco Lambro, in una casina che è poco lontano dalla mia, un grande progetto per gli adolescenti normali. Dobbiamo aiutare gli adolescenti a sognare, a vivere, a giocare, a credere. 13:46 minuti è tutto, ci fermiamo qua, adesso c'è il traffico, poi America 24 con Italia in controluce, ci sentiamo domattina alle 6:30.